Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, il provvedimento ha suscitato un'onda di polemiche e contestazioni che probabilmente non si placheranno a breve. Di fatto, dalla settimana scorsa c'è una legge, il decreto Ronchi, che stabilisce che il mercato dell'acqua pubblica si può aprire ai privati. Stiamo parlando della riforma dei servizi pubblici locali, che appunto prevede la privatizzazione degli acquedotti. Quattro regioni hanno annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale, alcuni partiti e alcune associazioni dei consumatori si sono dichiarati pronti ad una iniziativa referendaria contro questo decreto. Perché tutte queste reazioni? Perché il tema della cessione di quote di capitali delle municipalizzate ai privati è molto delicato e soprattutto ricco di implicazioni economiche oltre che politiche. E allora, quali conseguenze, questo è quello che ci interessa stamattina capire, noteremo se tutto questo si concretizzerà nel giro di qualche anno nelle nostre bollette, sulle nostre bollette? C'è davvero da temere questa corsa che verrà ingaggiata per privatizzare l'acqua e anche i servizi di gestione dei rifiuti delle nostre città? Oggi tra l'altro indagheremo anche sui costi sostenuti, almeno fino a questo momento, città, per capire se dal profilo, come dire, tariffario le cose potranno cambiare. Allora partecipate, vi prego, al nostro dibattito, perché come sapete Salva Danaio si parla molto di finanza familiare, ma questo è un tema un pochino più alto forse per rispetto agli standard a cui siamo abituati, proprio per le notevoli implicazioni politiche, come vi dicevo, per cui aiutatemi, coglieremo sicuramente molto volentieri come sempre le vostre considerazioni all'800 24 00 24. Acqua pubblica, acqua privata, che cosa ne pensate? Metteremo a confronto come sempre le vostre considerazioni con quelle dei nostri ospiti. Abbiamo questa mattina Mauro Dascenzi, vicepresidente di FederUtility, che è la federazione che riunisce oltre 460 aziende di servizi pubblici locali nel settore idrico ed energetico, associa il 95% degli acquedottisti italiani e le associate a questa federazione forniscono acqua a circa il 75% della popolazione italiana. Dottor Dascenzi, vi ho fatto un completo biglietto da visita, ho detto tutto? Perfetto. Grazie, buongiorno, naturalmente grazie di essere buongiorno con noi. Saluto anche Tiziana Toto, responsabile osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza Attiva. Complessivamente, Toto, buongiorno intanto. Buongiorno. Le associazioni dei consumatori vedono assolutamente in maniera contraria questo provvedimento, perché già hanno ipotizzato aumenti tariffari in vista che hanno quantificato, poi non so se anche Cittadinanza Attiva ha fatto lo stesso calcolo, hanno quantificato in almeno il 30% nei prossimi anni. Bisognerebbe anche proprio stimare l'arco temporale in cui questo aumento, in questa misura, potrebbe concretizzarsi. E ci collegheremo tra poco anche con Luciano Baggiani, presidente dell'ANEA, l'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito. Vi ho ricordato il numero verde per interagire con noi, vi ricordo anche il modo, la modalità per scriverci i vostri messaggi, comporre il numero 349-238-6666. Andiamo a dare un'occhiata alla borsa, perché stamattina abbiamo davvero un andamento curioso fra i listini europei. Ieri Wall Street, trainata dal balzo superiore alle attese delle vendite di case esistenti in ottobre, ha avuto una forte crescita e si è portata a riconfermati massimi da 13 mesi a questa parte, e quindi dopo il balzo di ieri, che poi ha contagiato anche l'Europa, stamattina ci aspettavamo un freno tra i listini del vecchio continente, un freno che c'è stato solamente però nelle prime ore di contrattazione. In avvio gli indici europei perdevano un punto, poi è stato pubblicato l'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese in Germania. In novembre è risultato nettamente migliore delle attese e il quadro è completamente cambiato in Europa. Adesso addirittura gli indici stanno viaggiando sulla parità. Londra e Milano si sono portati in territorio positivo. Milano sta guadagnando lo 0,07%. Sul FTSE MIB perdeva, vi dicevo, anche quasi un punto percentuale, esattamente come le altre borse europee. A sostenere oggi Milano troviamo Pirelli, più 2,27%. Troviamo anche CIR, quindi settore editoriale, più 1,44, Monte dei Paschi più 1,35, Luxottica più 1,22, il Banco Popolare in rialzo dell'1%, la Popolare di Milano più 0,9, Intesa più 0,9, quindi come vedete c'è una generale ripresa dei titoli del settore bancario. In discesa invece oggi abbiamo Fondiaria che perde l'1,68%, in pregilo meno 1,23, Unipol in ribasso di un punto con Enel, meno 0,7 per Finmeccanica e Tenaris. Solaris. Euro su dollaro 1,49,51 in questo momento. Stamattina l'euro era partito a 1,49,0 sul biglietto verde. Anche l'euro adesso sta ricominciando a riprendere quota sul biglietto verde. Direi di lasciare la borsa, andiamo al tema di oggi e parliamo di questa questione che settimana scorsa ha fatto tanto discutere tutta la comunità economica, e cioè andiamo verso, come dire, la privatizzazione degli acquedotti italiani. Che cosa succederà? Si apre il mercato dell'acqua. Dopo il sì della Camera al cosiddetto decreto Ronchi, la gestione di acqua, ma anche dei rifiuti, passerà progressivamente nelle mani dei privati. Quali vantaggi, se di vantaggi si tratta, porterà questa riforma? Ma soprattutto, quali saranno le ricadute sulle famiglie italiane? Acqua privata uguale reti più efficienti? O costi più contenuti? Non tutti ne sono convinti. Anzi, oltre alle opposizioni politiche sulle barricate, sono salite numerose associazioni di consumatori pronte a scommettere che l'unica liberalizzazione di fatto sarà quella delle tariffe, inevitabilmente destinate ad aumentare tra il 30 e il 40%. Così l'onere per le famiglie potrebbe passare dai 268 euro di esborso medio di quest'anno, considerando un consumo di 200 metri cubi di acqua, ai 348 euro nel 2012. Una cifra che potrebbe modificare l'ottima posizione italiana nella classifica mondiale relativa alla spesa dei consumi d'acqua. Confrontando la media italiana con il resto del mondo, si scopre infatti che l'Italia ha le tariffe più basse. A fronte dei 177 euro annui per un consumo di 200 metri cubi di acqua a Roma, ci sono i 968 euro annui pagati a Berlino e gli 800 di Zurigo. A spendere meno sono soltanto gli abitanti di Hong Kong e Buenos Aires. A livello nazionale, invece, le città dove l'acqua è più cara sono Agrigento e Arezzo, dove si spendono rispettivamente 440 e 410 euro l'anno, mentre Milano risulta essere la più economica con un esborso di 103 euro annui, grazie anche a condizioni territoriali più favorevoli e a una maggiore facilità di approvvigionamento. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, e davvero gli ascoltatori di Radio 24 di Salvadanaio non finiranno mai di stupirci, perché noto che già i centralini sono incandescenti e non pensavo appunto foste così sensibili intorno a questo argomento, e ci fa piacere naturalmente che vogliate interagire con noi. C'è un ascoltatore che scrive: all'estero, come ad esempio in Francia, l'acqua sta tornando pubblica, il costo era triplicato, è vero, è successo, e riporta tra l'altro alcuni casi insieme a quello francese, anche quello della Gran Bretagna, un lungo articolo, una lunga inchiesta pubblicata dalla Stampa proprio ieri a firma di Marco Sodano, dove appunto si racconta come il primo in Europa a privatizzare le reti idriche fu Jacques Chirac nel 1984, era il sindaco di Parigi, diede il via ad un programma di privatizzazione delle acque della capitale, ma il municipio adesso sta cambiando idea perché negli ultimi 25 anni i prezzi sono cresciuti sistematicamente senza che migliorasse il servizio, perché poi anche questo è il tema: se un cittadino paga per un servizio che è buono, magari paga anche volentieri, e si sono registrati anche troppi casi di abusi, prezzi gonfiati e corruzione, e quindi dal 1 gennaio del prossimo anno l'acqua torna alla gestione municipale. Poi magari vi racconteremo anche del caso della Gran Bretagna. Io comincio subito con le associazioni dei consumatori. Tiziana Toto, responsabile osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza Attiva. Le posizioni delle associazioni dei consumatori sono state abbastanza differenziate, però mi pare che abbiate fatto un po' tutte fronte comune su quella che è l'ipotesi di aumento delle tariffe nei prossimi anni alla luce di questo cambiamento molto importante che potrebbe avvenire. Insomma, anche voi siete d'accordo su questo 30% che è circolato? Quali sono i vostri timori? Perché so che voi non siete affatto d'accordo col decreto Ronchi. Allora, guardi, noi non abbiamo fatto una stima di quello che sarà l'aumento effettivo, quindi se consisterà in un 30% o meno o di più. Sicuramente riteniamo che ci sarà un aumento delle tariffe, ma è una situazione normale in cui un privato entra nella gestione di un'azienda, di una società. È chiaro che la finalità è quella comunque di avere un utile, quindi di conseguenza cercherà di recuperare le spese degli investimenti ricaricandoli sulle tariffe degli utenti. Quindi insomma vedete un meccanismo che sembra, come dire, anche abbastanza banale, no? Si fa un investimento e naturalmente si cerca di rientrare il più breve tempo possibile da questo, e quindi l'aumento tariffario sarà un risultato appunto di questo procedimento. Mauro D'Ascenzi, vicepresidente di Federal Utility, tra l'altro a parte la posizione appunto dell'organizzazione che lei rappresenta, vorrei partire da alcuni dati che avete reso noti con il vostro Blue Book 2009, il rapporto che ogni anno presenta la situazione dei servizi idrici e che voi redigete proprio con la collaborazione di ANEA, di cui abbiamo il presidente e che sentiremo dopo. È una rilevazione su documenti ufficiali e non campionaria. Pare che l'Italia abbia le tariffe più basse al mondo, ne paga le conseguenze, dite voi, però partiamo da questo dato di fatto, per cui voglio dire anche un aumento qualora i servizi migliorassero. Che problema c'è? Ma infatti, guardi, il problema vero è questo, che purtroppo non stiamo anche questa volta discutendo dei problemi veri. I problemi veri sono quelli che non si ritorni ai vecchi enti, ai vecchi consorzi che hanno sperperato denaro pubblico, che hanno portato la situazione idrica in queste condizioni, dopo 10 anni, più di 10 anni, con la legge Galli, che si sta tentando di industrializzare l'acqua. Qui non è problema di pubblico o privato, il problema è questo, io lo dico molto semplicemente. La situazione idrica italiana era disastrosa, da terzo mondo. Negli ultimi 10 anni si sono fatti dei grossi sforzi, in base ad un principio semplice, che se mi si rompe la macchina non vado dal sindaco a farmela aggiustare, ma vado dal meccanico. Così l'acqua ha bisogno di investimenti, di tecnologia, di dimensioni aziendali, e quindi devo crearle. Questo è il punto fondamentale di cui nessuno discute. Allora, nessuno discute del fatto che sì, abbiamo le tariffe più basse d'Europa e del mondo, ma abbiamo più del 30% della popolazione senza depuratori. Intere aree del paese dove, per esempio, sarebbe importante uno sviluppo agricolo, uno sviluppo soprattutto turistico, non hanno la depurazione. Noi in Italia adoperiamo l'acqua oligominerale per lavare le macchine, per pulire per terra. Ecco, questo è uno dei punti fondamentali, perché è non conveniente, non abbiamo le risorse per poterla riusare e riciclare. D'Ascenzi, io mi scusi se la interrompo. No, perché devo terminare, perché ho la pausa, ma abbiamo tutta la mezz'ora successiva per poter continuare a documentare meglio quello che lei ci sta dicendo. Quello che capisco è che stiamo parlando di un settore che sotto gestione pubblica o privata richiede comunque una mole tale di interventi di riqualificazione che prima o poi sarà soggetto ad aumenti tariffari, magari anche consistenti, e però, da quello che ho capito anche documentandoci in questi giorni su questo argomento, è una questione che da anni tende ad essere scaricata sulle amministrazioni successive, e oggi ci ritroviamo a parlare appunto di un ambito che ha bisogno di un radicale intervento, e ovviamente questo dovrà essere pagato da qualcuno. Salva Danaio oggi si cimenta nell'affrontare il tema della privatizzazione degli acquedotti, che è al centro, come sapete, del provvedimento Ronchi preso la settimana scorsa, che ha suscitato un vespaio di polemiche fra tutti gli attori coinvolti. In questo settore ce ne sono tanti, ci sono anche soprattutto i cittadini, che sono un po' spaventati rispetto a questa rivoluzione, perché in molti avanzano l'ipotesi che questo costerà a tutti. E però è anche vero, come ci spiegava Mauro D'Ascenzi, vicepresidente di Federal Utility, che i servizi trasporto dell'acqua nelle nostre case, banalizziamo molto il discorso, in certe aree d'Italia estremamente arretrato, per cui sicuramente dobbiamo fare molti investimenti in questo ambito per migliorare questo servizio per tutti, e quindi prima o poi tutto questo nelle tasche dei cittadini ricadrà. Non si può continuare a procrastinare questo tipo di interventi. Dottor D'Ascenzi, la lascio concludere per poi dare la parola ai nostri ascoltatori, e ci ha raggiunto anche Luciano Baggiani, presidente di ANEA. Nella sua esposizione, che è imbarazzante per me doverla correggere su un punto. No, ci mancherebbe, mi sono documentata sul materiale vostro. No, ma è bravissima, guardi, però le devo dire questo. Lei anche, che pure è così documentata, continua ad insistere su questo argomento, privatizzazione degli acquedotti. Non è assolutamente vero. Non è così. Prima cosa, l'acqua non è pubblicizzata, è sempre a disposizione del pubblico e dipenderà dalle ATO, che sono composti dai comuni. E su questo è un punto fondamentale. La seconda cosa è che gli acquedotti, per quindi anche i beni industriali, saranno sempre pubblici e demaniali. Benissimo, allora che cosa privatizziamo? Sì. Però mi permetta di dirle questo, perché è relativo a questo. Le tariffe, l'evoluzione delle tariffe e quindi gli aumenti sono già previsti e quantificabili dai piani d'ambito. e questi li stabilisce il pubblico, il gestore, sia pubblico o privato, non potrà che applicare quelli. Semmai ciò che manca è una effettiva capacità di controllo che ciò avvenga, perché uno dei punti deboli di questa legge, che ha luci ed ombre, è la mancanza dell'istituzione di un'autorità indipendente che rappresenti i cittadini, ma al contempo rappresenti le aziende e non dipenda da alcun potere politico. Certo, dottor Scienzi, magari non mi sono espressa bene, vedo che però gli ascoltatori che ci stanno chiamando conoscono molto meglio di me l'argomento e stanno proprio già muovendo i primi rilievi nella direzione che lei stesso indicava. Io vi faccio sentire un paio di ascoltatori, poi do la parola a Luciano Baggiani, ritorno anche a Cittadinanza Attiva. Allora, Maurizio dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio, io rappresento un comitato anche contro la cessione della gestione dell'acqua nel paese dove abito. Questo perché. Ma questo non in virtù del decreto Ronchi, credo che lei abbia cominciato un po' prima. Per quale motivo? Cosa succede a Modena? Dunque, nel paese dove vivo abbiamo, dato che era già iniziato prima la privatizzazione dell'acqua, ci siamo opposti come paese, abbiamo creato un comitato contro la decisione dell'ATO di cedere la gestione dell'acqua del paese di Fiumalbo, Pievepelago, Rilunato alla gestione di Iera, che è un... è la municipalizzata dell'area, sì. L'area, sì. E questo perché dappertutto sono lievitati i prezzi della gestione. Non è migliorata nelle altre zone dove sono intervenuti. Non è migliorata la captazione dell'acqua, il trasporto dell'acqua, in quanto sono società per azioni, quindi devono produrre reddito e non devono alla fine dell'anno fare nulla di sociale, devono fare soltanto reddito per i loro azionisti. Che è l'osservazione che faceva anche Cittadinanza Attiva prima, sì. Quindi? Pertanto l'acqua, come l'aria, deve essere una cosa libera e di tutti, è un diritto e non deve essere gestito. E però portarla nelle case, Maurizio, costa, quindi in qualche maniera questo servizio deve essere anche adeguato alle esigenze delle famiglie. Portarla nelle case devono pensarci comuni e le società pubbliche e solamente pubbliche, perché l'acqua è un diritto. E se non sono capaci di gestire, bisogna vedere questi amministratori che riescono a gestire gli acquedotti. Anche perché se ci fosse stato Brunetta molto tempo prima... sarebbe intervenuto anche là, dice lei. Non saremmo a questo punto nella gestione della cosa pubblica. Va bene, gli acquedotti fannulloni. Maurizio, la ringrazio, giro le sue considerazioni, così gli posso anche dare il benvenuto a Luciano Baggiani, presidente dell'ANEA, l'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito. Le devo chiedere anche, dottor Baggiani, di farci un piccolo biglietto da visita rispetto alla organizzazione che lei presiede, perché come immaginerà, anche se avete ormai 5 anni di vita e una legge vi contemplava già una legge del 94, non abbiamo molto a che fare in genere con l'ANEA, abbiamo forse più a che fare con gli ATO, ha suggerito anche Maurizio. Ci spiega qual è la vostra attività e quale grado di coinvolgimento avete in tutto questo procedimento in evoluzione? Ma noi siamo un'associazione degli ATO italiani, ne rappresentiamo oltre i 2/3 degli ATO previsti e vogliamo, il compito fondamentale è quello di scambiarsi, voglio dire, le varie esperienze nel settore della regolazione e conseguente a conoscere le migliori pratiche che ci sono nella regolazione per aumentare la capacità di regolazione degli ATO e conseguentemente le capacità anche di controllo, cioè tutte quelle funzioni che sono proprie degli ATO. Questo è quindi per quello che riguarda la vostra attività. Sentite il caso dell'ascoltatore l'esperienza dell'ascoltatore di Modena, che dice comunque in un paese, in provincia, si tenta da tempo di andare appunto nella direzione della privatizzazione, però c'è un comitato molto attento che si sta totalmente opponendo, perché comunque dice i risultati, adesso a prescindere diciamo dalla questione economica, non ce ne sarebbero. Insomma, è una perplessità che in realtà stanno sollevando molti ascoltatori. Qualcuno torna a ricordare il caso di Arezzo, la prima città che ha affidato il suo servizio idrico ai privati nel 99, oggi paga una delle bollette tra le più alte del paese. Insomma, allora di che cosa stiamo parlando, dottor Baggiani? Di che cosa si parla? Di che cosa si parla? La domanda è questa. Allora, innanzitutto la legge privatizza la gestione. Non diciamo altre cose. La legge privatizza la gestione, punto. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo che la gestione sia in mano a delle imprese private oppure debba essere gestita dal pubblico, ma questa è un'altra roba. All'associazione e agli ATO italiano non ci interessa il modello di gestione, perché in questa legge il punto fondamentale ancora oggi che la politica e il legislatore non ha voluto comprendere, e qui il ritardo, è il cuore del problema. Siamo di fronte ad una gestione in monopolio. che sia pubblica, privata o mezza e mezza. Di conseguenza quello che manca per tutelare i cittadini consumatori di questa risorsa dall'abuso del gestore di turno del servizio idrico è una forte regolazione autonoma e indipendente per eliminare un abuso potenziale del gestore nella qualità del servizio, nell'applicazione non corretta delle tariffe, nel fare investimenti, eccetera, eccetera. Questo è il vero problema. Quindi lei è d'accordo quando l'ascoltatore dice che comunque l'acqua è un bene a disposizione di tutti e devono essere solo ed esclusivamente i comuni a gestire la distribuzione nelle case delle famiglie? È una cosa ovvia e soprattutto lo è in virtù della nuova legge, quella la prima del 94, ribadita anche ora. È una cosa ovvia. Il bene è pubblico, è demaniale, voglio dire. Il problema è la gestione di questa risorsa, sia nel dare l'acqua potabile a casa, sia nel depurarla per renderla ai fiumi e ai mari. Chi la gestisce questa roba? Allora, qui c'hanno le varie opzioni. La nuova legge dice e privilegia esclusivamente il privato. Noi riteniamo come associazione, non abbiamo sposato nessun modello di gestione, perché il problema non è il modello di gestione. Il problema vero per tutelare il cittadino dal sud al nord per abusi, inefficienze e qualità, carenza del servizio è un forte, autonoma e indipendente regolazione nazionale e locale. Locale perché meglio nel servizio idrico si può controllare il gestore. È una questione comunque estremamente complessa da quello che capisco e sicuramente continuerà ancora a farci discutere. Adesso vorrei sentire anche un altro ascoltatore, Vincenzo Davarese, che invece è completamente a favore dell'operazione privatizzazione dell'acqua. Banalizziamo così, i miei interlocutori si arrabbieranno di certo, però poi alla fine sui giornali passa in questi termini. Vincenzo. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Sì, pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Sì, allora volevo dire, prima di privatizzare tutta la rete idrica, dovrebbero prima sistemare tutta la rete idrica di tutta Italia, parlando dalla Sicilia, parlando dalla Puglia, che a mese di agosto-luglia che non ha niente, tante volte non ha neanche l'acqua per farla mangiare. E questo l'abbiamo detto all'inizio, Mauro, Vincenzo. Il problema poi che c'è dentro, ci sono certi comuni che non hanno neanche i depuratori e li fanno pagare... Il 30% della popolazione, dice Federal Utility. Cioè che non hanno questi depuratori, non avendo i depuratori, anche pur pagando l'acqua depurata, però non ce l'hanno. Prima dovrebbero mettere a posto tutto questo e poi privatizzare la cosa. Perché allora quel punto là mi fai capire che l'italiano pagherà tutto dalla A alla Z. Vincenzo, la ringrazio, quindi lei è a favore insomma dell'accordata dei privatizzatori. Allora vorrei tornare un attimo a Tiziana Toto di Cittadinanza Attiva, perché abbiamo capito, le ho fatto aprire la trasmissione, le perplessità di questa organizzazione rispetto a questo processo di privatizzazione dell'acqua. Ribadisco, banalizzo molto per farla capire al volo ai nostri ascoltatori, il decreto Ronchi di cui si è parlato tanto la scorsa settimana, e Cittadinanza Attiva ci diceva: noi temiamo che ovviamente passando questi servizi ai privati, banalmente poi i privati guarderanno solamente ai bilanci di fine anno, ma non un reale lavoro di miglioramento dei servizi idrici del nostro paese. E quindi voi avete fatto anche Toto delle proposte concrete in modo tale che questa ricaduta non ci sia, ma mi chiedo qual è anche il problema appunto rispetto a questo. Le vorrei far ribadire questo punto, se lo ritiene, e anche la relazione comunque con le qualità del servizio. Sono in grado oggi gli enti locali di apportare delle migliorie ai servizi idrici del nostro paese? Mi pare che negli ultimi anni questo sia stato spesso un tema al centro del dibattito, ma solo fonte di grandi polemiche senza risultati concreti. Allora sì, sicuramente noi lo abbiamo sempre detto, cioè il nostro servizio idrico di fatto ha delle criticità, nel senso che ancora c'è una gestione molto frammentata e che comunque c'è il problema delle perdite dell'acqua immersa nelle tubature. Come si diceva prima, il 30% della popolazione italiana è sottoposta ad un approvvigionamento del servizio discontinuo inefficace. Poi abbiamo visto come gli investimenti che erano stati stati diciamo previsti al 2008 non siano stati totalmente realizzati, anzi ne è stato realizzato soltanto il 56%, e a fronte di tutto ciò nel diciamo dal 2000 ad oggi le tariffe sono già aumentate del 47%. Io, ma cittadinanza attiva condivide pienamente l'opinione secondo la quale diciamo il vero problema in questo momento è che questo provvedimento non ha preso minimamente in considerazione l'istituzione di un'autorità nazionale di regolamentazione. Cioè, questa è una richiesta che noi facciamo da sempre, da tanti anni, ma diciamo non si è mai giunti ad una ad una decisione di questo tipo. Toto, le faccio sentire un ascoltatore di Firenze che la vede esattamente come lei. Gigi. Gigi, sì, buongiorno. Buongiorno a lei, ospiti. Allora, io praticamente ho letto giorni fa la legge, perché mi sono informato, e anch'io ero ideologizzato dal fatto che l'acqua deve essere pubblica. Però mi domando, come mai praticamente i comuni non hanno fatto sì di non arrivare a questo punto? Perché c'è una netta differenza tra il nord e il sud. Sì. Genericamente praticamente al sud è un polto, vengono messi nei posti di rilievo dove gestiscono l'acqua, dove non c'è una garanzia, un'autority da parte del pubblico a persone che praticamente non sono andate nel corso politico, non hanno fatto corso politico, sono stati messi lì. Quindi c'è un grosso spreco praticamente di denaro pubblico nelle municipalizzate. E finisco. Se noi ci rendiamo conto il caso d'Arezzo, però mettiamolo su questo punto, io vado a comprare l'acqua in bottiglia eccetera, se Arezzo mi dà modo di bere l'acqua e fare tutte le cose, io ammortizzo anche i costi. Certo, ma quello che dicevo prima. Sì, la devo vedere in un modo proveniente anche. E poi, come ultima cosa, manca un'authority, ma l'authority deve essere formata dai cittadini, regioni, province, la mettono qua. Da noi ci vogliamo verificare le cose che vengono fatte sulla struttura, perché io faccio l'idraulico, quindi so quanto costa praticamente il tutto, i cittadini più un'authority terza, in modo tale che anche i privati che prendono questo bene non facciano quello che vogliono, perché adesso siamo in questa situazione. Certo. Gigi, la devo salutare perché ho pochi minuti e ci sono tanti altri ascoltatori in attesa. Allora, siccome siamo solamente ai primi abbozzi della discussione intorno a questa legge, Mauro da Scienzi, ti coinvolgo di nuovo lei, e abbiamo già visto che vespaio di polemiche ha suscitato. La perplessità, una delle perplessità centrali, riguarda proprio la necessità di mettere in piedi un'authority che poi controlli tutto il meccanismo che si va a costruire. Concorda con questa visione? Poi le chiedo se molti ascoltatori continuano, ma non sono solamente gli ascoltatori di Salvadanaia, a sollevare la questione del un esperimento che già si è fatto in alcuni paesi d'Italia, in alcune città d'Italia, ma anche in altre grandi capitali europee. Ho citato il caso di Parigi. Si è fallito completamente, tanto che adesso si torna addirittura indietro. Perché in Italia dovrebbe andare diversamente? No, non è vero che si torna indietro negli altri paesi, questa è una sciocchezza. A Parigi si torna indietro, no? Il comune si riprende l'acqua semplicemente perché costa 4 volte quanto costa a Roma, e il sindaco ha detto che quegli utili se li porta in comune. Poi Parigi era gestita la Rive Gauche da un'azienda e dalla Rive Droit un'altra azienda, quindi bisognerebbe conoscere meglio i processi. Allora sappiano costoro che tutte le gestioni pubbliche, anche molto efficienti, del nord Europa, i paesi scandinavi costano, i prezzi sono 4 volte l'Italia. E quello è vero, e questo è quanto emerge dal vostro Blue Book. Dire rapidamente soltanto queste cose. Sono molto contento perché fino a un mese fa noi aziende pubbliche eravamo definiti dal ministro Brunetta, qui ci titato, i golpisti contro il cambiamento. E la parola pubblico, io rappresento aziende pubbliche, era una parolaccia. Adesso a quanto pare sta diventando una parolaccia la parola privato. Io vorrei che non si buttasse via il bambino con l'acqua sporca. Allora, già che di acqua stiamo parlando, che da un eccesso si tornasse invece agli vecchi enti e ai vecchi consorzi. Quello è il disastro. Mi faccia ancora dire questo, che non c'è incompatibilità tra bilanci sani e distribuzione equa, giusta, ben fatta, ben organizzata dell'acqua. Anzi, è il contrario. Per portarla dappertutto devo avere aziende efficienti che abbiano bilanci sani, perché altrimenti prima o poi pagheranno i cittadini in termini di inefficienza e di tassi. Certo, situazione nella quale sicuramente gli enti locali non si trovano, certo. Poi le voglio ancora dire questo: attualmente l'acqua che si difende non c'è solo Arezzo che comunque ha un ottimo servizio anche se la tariffa è alta, la stragrande maggioranza della popolazione è stata affidata con i criteri di affidamento legittimi dagli ambiti, quindi con gestione industriale. Io le faccio una previsione, nonostante i limiti di questa legge, il più grosso è quello dell'authority. Ma se ne tornerà a discutere, sicuramente qualche miglioramento, penso, o miglioramento o cambiamento in ogni caso verrà fatto, perché avrà un processo anche parlamentare questa legge, per cui non credo che finiremo qua, no, dottor D'Ascenzi? Che le nostre aziende pubbliche, a partecipazione maggioritaria del pubblico, aziende miste, oggi gestiscono il 95% degli affidamenti. Domani reggeranno la sfida e gestiranno il 96%. Benissimo. Altro che privatizzazione. E allora su questa previsione noi chiudiamo la nostra trasmissione, che non aveva nessuna, come dire, finalità concreta oggi, nel senso che abbiamo voluto sentire e interpellare gli ascoltatori anche intorno a questo dibattito. Vedo che sono tutti molto, molto caldi. Peraltro avevamo come ultimo ascoltatore uno Stefano Di Arezzo, città più volte citata in questa trasmissione, e noi seguiremo però il percorso di questa legge per capire che cosa potrà cambiare nel nostro paese, come avverranno queste privatizzazioni che sono, come dire, un po' oggetto di grande spavento per qualcuno, una grande opportunità invece per tanti altri attori di questo settore. Grazie a Tiziana Toto, Mauro D'Ascenzi e Luciano Baggiani. Noi ci risentiamo con Salvadanaio domani. Buona giornata. Salvadanaio.